Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane. Ovviamente adesso dalle ore 20 alle 21:30. Bene, questa era la sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. E se non erro, oggi è l'8 febbraio, sì, è giusto, scusate se non mi ero preparato, quindi siamo proprio in diretta, e comunque lo dico anche per chi dovesse riascoltare questa trasmissione nel nostro blog, che comunque dopo vi daremo i contatti, ma vi svelo subito che si chiama zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ma lo dirò lo stesso alla fine. E trasmettiamo da Udine, forse l'ho anche già detto, Radio De Furlane, eccetera eccetera, e la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione di Friuli e Trieste. Ora andiamo all'ascolto di questa band tedesca, che era esistita negli anni 80, anzi sul finire degli anni 80, loro erano i Too Bad, e dal loro album datato 1988, Get Fat and Die, ci ascoltiamo alcuni brani, e volevo specificare che erano comunque di Amburgo. No blood. you're looking good now, that's a fact. We want a party, so help us out. Come on. Then put a shotgun in your mouth. Don't ask why I want these things. Oh, God's children, start to sing. Amen. Take these words as heaven sent. Remember, I'm your government. Cause if there's no blood, it's no good. If there's no blood, it's no good. If there's no blood, it's no good. If there's no blood. I want you to be my friend. Want your worthless lives in. If there's no blood, it's no good. If there's no blood, it's no good. Perché vogliamo abbattere le frontiere al Brennero e ovunque? Perché vogliamo farla finita con un mondo di ghetti, di guerre, di sfruttamento, di devastazione ambientale, di controllo sociale. Perché sappiamo che le frontiere sono una barriera e allo stesso tempo un monito. Un chiaro messaggio lanciato contro chi non ci sta, contro quell'umanità che è di troppo nei calcoli degli stati e delle multinazionali. Ma anche contro quelle minoranze ribelli che non vogliono prendere posto nei ranghi. Filo spinato e militari sono oggi per loro, ma si annunciano anche per noi. E questo i vertici della NATO o della Gendarmeria Europea lo affermano apertamente. Abbattere le frontiere non può essere uno slogan con cui reclamare il ritorno a Schengen o una diversa politica di accoglienza da parte delle istituzioni, e nemmeno una mera espressione di solidarietà nei confronti dei profughi. Significa battersi autonomamente con quelli che ci stanno per sconvolgere un ordine sociale marcio fino al midollo. Se ogni sbirro è una frontiera per chiunque abbia delle buone ragioni per non farsi fermare, le frontiere sono anche un governo dei flussi di merci e degli esseri umani ridotti a merce. E allora il primo e più immediato messaggio dovrà essere questo: le vostre barriere di acciaio vi costeranno caro. Non daremo tregua alla pace dei vostri mercati né alla guerra dei vostri muri. Siamo pochi, lo sappiamo. Vorremmo tuttavia suggerire un certo modo di essere internazionalisti oggi. Centinaia di migliaia di donne e di uomini giungono alle frontiere dopo viaggi estenuanti, conoscendo a malapena le zone dove passano o dove arrivano. Ignorano quanti poliziotti troveranno, se ci saranno fiumi da guadare e quanti ne usciranno vivi. Eppure partono, con la caparbietà della disperazione e con caparbietà in tanti si battono, anche a mani nude. Noi che mangiamo tutti i giorni, che siamo mossi da un ideale e non dalla paura cieca o dai morsi della fame, vorremmo proprio noi delle garanzie di riuscita. Prima di lanciarci all'assalto di questo mondo e dei suoi reticolati, se vogliamo che crolli la frontiera tra loro e noi, dobbiamo a nostra volta salpare dalle terre note e familiari, metterci in viaggio. Vogliamo raggiungere una vita senza potere né denaro, senza stati né classi. Tra noi e quella vita ci sono innumerevoli muri. Il ritorno delle frontiere è oggi uno dei più inaccettabili. Ma che significa affermare in un'epoca in cui le parole sembrano aver perso ogni senso e ogni forza che una cosa è inaccettabile? Quante volte si è accettato ciò che si dichiarava di non poter accettare? Provare ad abbattere le frontiere è anche un impegno a non accettare l'inaccettabile, un esercizio di etica del linguaggio, una pratica di libertà, un incontro possibile tra compagni di rotta. Ever let finestra non ho visto che tristezza colorata, che oggi con un nuovo colore, ma il ghiaccio sotto permane, il ghiaccio sotto permane, il ghiaccio che rallenta ancora un altro. Sì, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zernis Magnetics. E allora, quello che ho letto era il volantino di chiamata della manifestazione di sabato 7 maggio 2016, appunto della giornata in cui si è svolta questa giornata di lotta al Brennero, e l'ho letto da questo opuscolo che porta il titolo Abbattere le frontiere al Brennero e ovunque, materiale di una giornata di lotta, Brennero 7 maggio 2016, un opuscolo che è stato così redatto per raccogliere anche insomma sottoscrizioni per appunto le vicende giudiziarie, il processo del Brennero, che è particolarmente impegnativo. Ricordiamo che da fine gennaio insomma fino al 5 di marzo, giornata in cui ci sarà un'udienza insomma appunto per i fatti del Brennero, in tutto questo periodo insomma si stanno moltiplicando le iniziative appunto in solidarietà con i condannati, già perché appunto sono stati già distribuiti diciamo 130 anni di carcere circa ai vari compagni che hanno partecipato, però appunto si deve andare in Cassazione. Questo opuscolo appunto contiene un po' così i vari materiali che sono stati prodotti dal 2015 in poi, e poi volantini, insomma descrizioni di quello che è avvenuto, anche le dichiarazioni al Tribunale di Bolzano, al processo d'appello che si è tenuto nel 2020 e poi ancora nel 2023, e niente, e poi c'è questa introduzione che magari vorrei anche da questo leggervi qualcosa, perché è un'introduzione che diciamo crea i nessi con proprio quello che sta succedendo ora, cioè lo stato di guerra guerreggiata, diciamo, che appunto si caratterizza questi ultimi l'ultimo anno, ma insomma comunque questi ultimi tempi. Ecco, una cosa che non ho detto, se si vuole contattare appunto la Cassa di Solidarietà del Brennero, si può scrivere a Cassa Solidarietà Brennero @riseup.net, e comunque l'opuscolo potete trovarlo anche in via De Rubeis, nello spazio autogestito, durante le iniziative in questo periodo. E niente, magari mettiamo un po' di musica e poi leggiamo qualche brano dall'introduzione dell'opuscolo. Eccomi di nuovo qua. Sì, mi sono dimenticata, mi pare, di dire che la manifestazione del 7 maggio 2016 al Brennero era proprio contro la costruzione di un muro per bloccare gli emigranti al confine fra Italia ed Austria. Allora, vi leggo qualcosa da questa introduzione all'opuscolo che è molto interessante. Il nesso frontiere guerra ha perso nel frattempo, cioè in questi 7 anni, ogni carattere allusivo. La guerra non è oggi una questione tra le altre, ma l'orizzonte storico-sociale in cui tutto il resto si colloca. La militarizzazione del linguaggio, che ha accompagnato e giustificato l'emergenza Covid, dal coprifuoco all'accusa di renitenza e diserzione rivolta ai dissidenti, per arrivare a un generale della NATO chiamato a gestire la campagna militare vaccinale, ha preceduto la propaganda di guerra con cui hanno voluto arruolarci nel conflitto tra NATO e Federazione Russa, che ancora si sta consumando in Ucraina, per raggiungere il suo apice nel sostegno pieno ed esplicito al genocidio che lo Stato di Israele sta compiendo contro la popolazione palestinese. Più di 2 milioni di persone chiuse in un carcere a cielo aperto fra due frontiere, sotto una pioggia di bombe a guida algoritmica, con migliaia di morti e decine di migliaia di feriti, che gli ospedali distrutti non possono curare, una massa di Untermenschen che l'unica democrazia del Medio Oriente vorrebbe deportare nel deserto del Sinai. Davvero, come scrivevamo 7 anni fa, le barriere sono l'emblema del nostro presente. Mentre l'umanità fuggiasca dalle guerre e dalla miseria muore di sete nel Sahel, affoga nel Mediterraneo o congela sui passi di montagna e i suoi sopravvissuti finiscono nei campi di lavoro o nei lager della democrazia, la frontiera è la soluzione tecnica, come disse con brutale verità il capo della polizia austriaca nell'annunciare la costruzione della barriera al Brennero. Soluzione tecnica che attraversa sempre di più la stessa società democratica. Quella in costruzione, tra polizia in uniforme e polizia predittiva, tra checkpoint militari e muri elettronici, tra smart cities e QR code, con cui dimostrare il proprio diritto a stare in questo o in quel posto, è una società dei varchi. In tal senso, la violenza che il colonialismo di insediamento israeliano esercita sul popolo, classe palestinese, non è un residuo del passato, bensì una tendenza mondiale in atto. Non solo perché è sulle vite e sui corpi dei palestinesi che si sperimentano tutte quelle armi e tecnologie che poi vengono vendute a eserciti e polizie del mondo intero, ma perché la ferocia della valorizzazione e della competizione capitalistica produce un'umanità di scarto, soggetta ad una accumulazione senza riproduzione, cioè una materia prima in eccesso da confinare e gestire con modi a metà tra la tecnica concentrazionaria e la cooperazione umanitaria. Ogni varco ha il suo palestinese, non solo perché la materialità rimossa del mondo digitale ha bisogno di schiavi nelle miniere di coltan o di litio e di interi territori tossici e radioattivi, ma perché l'accesso alle città smart sarà sempre più condizionato e revocabile. Se il ministro della difesa israeliano ha definito i Gazawi animali dalle sembianze umane e il vice sindaco di Gerusalemme ha aggiunto che non sono esseri umani e nemmeno animali, sono subumani ed è così che dovrebbero essere trattati, l'informatico transumanista Rai Kurzweil già parecchi anni or sono definiva scimpanzé del futuro i riluttanti alla gestione automatizzata delle vite e della società. Se, come ha scritto uno storico, l'invasione coloniale di una terra per crearvi degli insediamenti è una struttura, non un evento, ruolo della critica rivoluzionaria è cogliere come forme di violenza ottocentesche convivano nello stesso spazio-tempo con i progetti di un presente sempre più distopico, cioè di come la torre high-tech allarghi di continuo le proprie cantine insanguinate, finendo per riservare ai propri cittadini una sorte simile a quella a lungo inflitta al popolo degli abissi nelle sue periferie. Se guerra, sviluppo tecnologico e saccheggio coloniale procedono insieme, fondamentale è non settorializzare le lotte, senza per questo rinunciare a specifici angoli di attacco. Allo slogan «Ogni sbirro è una frontiera» bisogna aggiungere anche «Il leviatano algoritmico produce 1000 frontiere». Tra questi due poli si giocherà il futuro della resistenza e dell'umanità. Se questo è il cosa, Gli oltre 130 anni di carcere inflitti per il corteo al Brennero impongono di riflettere sul come. Non solo si tratta, a nostra memoria, delle condanne complessive più alte mai emesse per una manifestazione in Italia, ma esse si inseriscono in una tendenza più generale di guerra aperta a ogni forma di dissenso, non puramente simbolico. Dalle accuse di istigazione con finalità di terrorismo, atte a colpire pubblicazioni sovversive o discorsi fatti in piazza, all'inasprimento delle pene per blocco, picchetto e occupazione, fino al recente tentativo, contenuto nell'ultimo progetto di pacchetto sicurezza del governo Meloni, di qualificare come rivolta qualsiasi disobbedienza agli ordini da parte dei detenuti o degli internati nei centri per l'espulsione, nonché di interdire certe zone o addirittura mezzi di trasporto ai condannati per reati contro il patrimonio. Guarda caso, ad essere prese di mira, sono quelle forme di lotta che negli ultimi anni hanno visto come protagonisti soprattutto i proletari immigrati. Anche queste sono frontiere interne, riflesso della guerra esterna. Senza un vasto movimento di rottura sarà ben difficile uscire dall'angolo, ma se la radicalizzazione delle lotte dovesse tardare, non prendere l'iniziativa anche in pochi ci renderebbe inerti e disumani. Spingere e allo stesso tempo durare è la quadratura del cerchio che siamo chiamati a compiere, grazie a quella forza che scompagina le carte dei repressori, la solidarietà. Che il tempo della sottomissione si fermi. Dicembre 2023. Stiamo ascoltando i Wolf Brigade, band che più volte abbiamo passato durante questa trasmissione, ma questo è il loro ultimo album, datato 2019, The Enemy Reality, anche se devo dire che l'ultima uscita per questa band svedese è avvenuta 2 anni fa con un 7 pollici uscito grazie ad una etichetta italiana. Comunque più volte abbiamo raccontato la storia di questi Wolf Brigade, che in realtà prima si chiamavano Wolfpack, hanno fatto un paio di album, poi hanno cambiato nome per non confondersi con una nota con un noto gruppo motociclistico neonazista sempre in Svezia. Comunque questi sono i Wolf Brigade. E altra cosa che devo dire, all'inizio abbiamo messo alcuni brani durante l'intervento che erano gli Incline, band di Trento, dal loro unico CD, diciamo demo tape, come si chiamava una volta, comunque un CD con 5 brani e poi nient'altro. Comunque rimaniamo all'ascolto dei Wolf Brigade. Hey, Bene, Wolf Brigade, per questo un saluto per questa puntata della Zoiba Grassa 2024 di Zardins Magnetics. Anche da parte mia, tutte e tutti voi che siete in ascolto. Si diceva prima in maniera forse un po' disperata e oscura, spingere allo stesso tempo durare e la quadratura del cerchio, eccetera eccetera. In ogni caso vi voglio ricordare, prima cosa, voglio ricordare che esiste una assemblea che si chiama Sabotiamo la guerra ed è giunta già al settimo incontro, che si svolgerà domenica 11 febbraio dalle 10.30 a Rovereto, al Circolo Cabana, via Campagnole 22. Vado a leggervi la chiamata per questo settimo incontro dell'assemblea, diciamo ad ampio respiro, diciamo, non diciamo nazionale, italiano. Comunque sono vari compagni, ecco, anarchici, antimilitaristi da tutta la cosiddetta Italia. Mentre lo Stato di Israele cerca disperatamente l'allargamento del conflitto per smarcarsi dal pantano di Gaza, tutte le potenze occidentali già attaccano o si preparano ad attaccare l'unica realtà statale, il governo Houthi dello Yemen, che ha osato opporsi nei fatti al genocidio in corso. Se un nuovo conflitto mondiale non è mai apparso tanto vicino, la strenua resistenza dei palestinesi getta più di un bagliore nelle tenebre del presente, lanciando un messaggio a tutti gli oppressi del mondo. È possibile far tremare quel sistema, Israele, che con il suo primato tecnoscientifico, i suoi muri elettronici, le sue smart city, il suo esercito permanentemente in strada, pare una sintesi e un'anticipazione, oltre che l'avamposto, del mondo nuovo tecno-totalitario in formazione. Di questo e altro parleremo in questa settima tappa della nostra assemblea, tenendo ben presenti alcuni possibili tornanti. Lo sciopero, chiamato per il 23 febbraio in solidarietà alla Palestina, e la giornata internazionale di mobilitazione del 24 febbraio contro le guerre dei padroni. Le giornate del 14 e 15 marzo, quando a Trento, già città leader della ricerca informatica, si svolgerà il G7 dell'intelligenza artificiale. E si conclude la chiamata che la variante umana e di classe si faccia sentire forte e chiara. Appunto, quindi, sulla base di queste considerazioni, si terrà un incontro dell'assemblea Sabotiamo la guerra domenica 11 febbraio dalle 10.30 al Circolo Cabana di Rovereto, in provincia di Trento. Seconda cosa che vi volevo, che così, secondo testo che vi invito ad ascoltare insieme, è questa lettera di Luigi. Luigi è un indagato, ma anche sottoposto a misure cautelari della, diciamo, operazione repressiva Scripta Scelera di questo agosto 23, diciamo, che appunto ha compreso alcuni di quelli, insomma, che si occupavano della redazione, ma non, diciamo, ovviamente non comprende tutta la redazione di Bezmotivny, il quindicinale anarchico, dove si pubblicavano e si pubblicano spesso i testi delle rivendicazioni delle azioni di attacco svolte, insomma, in vari posti del pianeta. Iniziativa di ignoti, così per dire, di compagni, altri compagni. E Luigi, appunto, sottoposto a ai domiciliari. Voglio, insomma, vorrei che ascoltassimo insieme la sua voce, perché appunto il fatto di uscire così alla luce del sole avrà sicuramente delle conseguenze immediate, concrete sulla sua situazione, ma lo capirete, insomma, leggendo l'importanza di questo testo, secondo me. Avevo pensato maldestramente che la cosa si sarebbe prolungata per minor tempo. Eppure, vista l'ostinazione con cui lo Stato vuole silenziarci e velocemente condannarci, ho deciso di riprendere parola. Cosa saggia o meno, poco importa. D'altronde è difficile a dirsi se rinunciare, vuoi per costrizione o meno, a qualsiasi interazione con i propri affetti e con la lotta, sia cosa saggia. Difficile a dirsi. Certo, ci sono tanti escamotage, sicuramente più furbi rispetto a uno scritto firmato nome e cognome nero su bianco. Ma c'è una cosa che non riesco a smettere di ritenere giusta. Metterci la faccia. Sì, questa piccola ma profonda questione per me è legatissima a quel che sono stati e saranno tutti i progetti editoriali e i momenti di agitazione che mi hanno coinvolto in questi anni. È quello che ardentemente ho sempre personalmente sostenuto. Dire chiaro e tondo che sostengo e condivido l'azione diretta, esplicitando quello che secondo me è il metodo più congeniale per raggiungere l'azzeramento dei valori, fra virgolette, della società borghese. Il metodo insurrezionale. L'attacco a uomini e strutture dello Stato e del capitalismo. Ecco, io non credo esistano anarchici che hanno paura di dire queste cose. Credo che sia l'essenza del rivoluzionario stesso questa ostinazione, questa costante ricerca di diffondere e far emergere idee per creare o sostenere dimensioni di scontro sociale. Il tentativo di definirci come organizzazione clandestina e terroristica fallisce non tanto nei fatti reali, come la nostra appartenenza a un circolo anarchico estremamente pubblico, o per la redazione di un giornale che veniva distribuito non certamente, forse purtroppo, in segretezza negli spogliatoi di qualche fabbrica. Ma fallisce e viene demolito dal semplice fatto che gli anarchici, i rivoluzionari, tutti in generale, le idee le diffondono alla luce del sole. Non siamo una setta di ragazzotti che se la raccontano. Siamo proletari e con altri proletari interagiamo, diffondendo le idee che più ci paiono congeniali per la liberazione umana. Privarci della disponibilità, quindi, dei nostri libri, delle nostre sedi, che peraltro sono espressamente e insistentemente aperte a tutti eccetto sbirri e padroni, ci rinchiuderebbe in un vortice di isolamento totale, volto a una forzata clandestinizzazione, incapace poi di operare efficacemente, estraniando l'anarchismo agli occhi degli sfruttati, cosa che a mio parere abbiamo visto accadere e intensificarsi negli ultimi due decenni. Pericolosissima quindi la chiusura. In effetti, arrotolarsi le maniche e cacciare le zampe nel pastrocchio sociale odierno è cosa ben poco appetibile. Più comodo invece raccontare a pochi eletti l'evoluzione di un pensiero, quale quello anarchista destinato a perire tra i dialoghi ebri di tali esseri puri, ergendoli a unici addetti all'ingresso. Gli altri, i rozzi, i proletari, le puttane, i poveracci, dal linguaggio sconcio, dalle manie poco corrette, sic, non meritano l'attenzione di questa autoproclamatesi brave persone. Questa non è solo la morte dell'anarchismo, questa è la morte di tutti quei sogni di liberazione che hanno sempre accompagnato gli esseri umani fin dall'esistenza di società autoritarie. Per me Bezmotivny è stato un tentativo, in questo senso, di uscire dalle atarassiche faccende domestiche e ritornare nel fango della via. Un primo tentativo che non aspetta altro che superare i propri limiti. Ovviamente però, al di là delle singole idee espresse negli articoli, ciò che pesa forse in maggior modo è la scelta di pubblicare le rivendicazioni di Azioni Dirette in Italia, ma anche e soprattutto riguardo a fatti palesatisi in altri paesi. Anche qui, si potrebbe dire, niente di poi così tanto strano. È chiaro che un pubblico ministero di un certo prestigio come il signor Manotti ha approfittato della volontà di un gruppo di compagni di non temere il sostegno all'Azione Diretta per appunto indicarli come appartenenti al cosiddetto sodalizio terroristico che graviterebbe intorno alla tanto abusata dalla cronaca Fai Free. Per conto mio ho sempre ben saputo che pubblicare una rivendicazione e sostenere una giustezza ha una sua ripercussione e sono false le moine giornalistiche. I rivoluzionari sono sempre andati in carcere per i giornali scritti o articoli. Non è mai stato diverso da oggi, forse accadeva un po' meno con la monarchia. Purtroppo per certuni, anche dopo, seppur pochi, dopo 6 mesi di domiciliari con tutte le restrizioni, questo di me non è cambiato. Ritengo ancora giusto pubblicare e diffondere le azioni rivoluzionarie, lo ritengo giusto, e quando mi sarà possibile continuerò a pubblicare giornali, opuscoli, volantini, manifesti. Continuerò a interagire con gli altri sfruttati, cercando di diffondere il più possibile anche solo l'idea della giustezza della violenza rivoluzionaria. Ciò che proprio non riesco a capire, o almeno non mi è così chiaro, è cosa pensano di fare con noi questi signori. Gli anarchici, indipendentemente dal nostro stato di reclusione, continueranno a documentarsi, continueranno a stampare i volantini e i giornali, e anche quando saranno costretti alla fuga lo faranno nell'ombra. Quindi, mi viene da dire, teneteci pure quanto vi pare. Questo non cambierà. Il paradosso è che con questo scritto, con tutta probabilità, in quanto si tratta di una violazione delle misure restrittive, mi troverò in carcere, dove potrò scrivere a chi e quanto mi pare. Detto questo, saluto col cuore tutti i disertori nel mondo e tutti i compagni in lotta contro la guerra. Viva la rivoluzione, viva gli anarchici. Luigi, febbraio 24. Postscriptum, occhio Manotti, che in carcere potrei smontare una branda e costruire una offset. E questa appunto è Violetto, abbiamo ascoltato insieme questo testo che è uscito insomma questi giorni di Luigi, compagno imputato per la operazione scritta scelera. Appunto questa ennesima momento repressivo, situazione insomma di compagni italiani, sì, il nostro territorio qui dello Stivale, che sono stati oggetto appunto di indagini, arresti, e adesso sono a processo per appunto perché sono quello che sono, non per qualcosa che hanno fatto ovviamente, ma preventivamente vengono bloccati in quanto appunto considerati sovversivi, e quindi sono solite questo purtroppo è una cosa che ripetiamo, cioè no, purtroppo vogliamo ripeterla, è una questione diciamo di tempi cupi, e forse questo si intendeva anche il discorso di prima sul uscire dal sì, cercare la quadratura, cioè spingere allo stesso tempo durare la quadratura del cerchio, no? Si diceva prima per i compagni sotto processo per il Brennero, e ecco i tempi cupi nel senso sovversivo, appunto, è un termine che voi non sentite sui media mainstream, perché è una missione praticamente di regime autoritario, come essere ai tempi cupi, insomma, del ventennio fascista. Quindi ovviamente non sono così idioti da autoammetterlo, e la realtà però è questa, ecco, di continue colpi, appunto, che subisce il movimento, e l'importanza, appunto, di non mollare e continuare a spingere in questo senso, e continuare non mollare e avere anche il coraggio, appunto, di dichiarare quello che si è alla luce del sole, dargli, appunto, contenuto a questa anche con parole molto semplici, ecco, a questa situazione, situazione in cui si resiste, appunto, a un contesto proprio, dobbiamo dirlo, autoritario. Sottofondo, direttamente da Portland, nell'Oregon, i War Cry, questo loro album datato 2008, Not So Distant Future, come già detto, War Cry. Sì, appunto, si diceva spingere e durare e utilizzare l'arma della solidarietà per non farsi appunto annichilire, disumanizzare, reificare, e proprio l'arma della solidarietà hanno utilizzato i migranti del CPR di Ponte Galeria che sono subito intervenuti quando hanno capito che Ousmane Sylla, il giovane, il 22enne guineiano, si era impiccato. Hanno subito tagliato il cappio e hanno subito cercato di soccorrerlo, a differenza degli operatori, insomma, a parte un'infermiera che ha provato a rianimarlo, ma ricordiamo che i soccorsi sono arrivati dopo un'ora. E non hanno solo fatto questo, cioè cercato di sostenere il loro compagno di prigionia, ma hanno anche attaccato la polizia, hanno cercato di dar fuoco a un'auto e hanno anche fatto, insomma, sono riusciti anche a danneggiare le forze dell'ordine fisicamente, i corpi di alcune forze dell'ordine fisicamente. Per una volta, vabbè, poi si lamentano sempre perché sono sempre 200 giorni di prognosi, anche se non si sono fatti solo un graffio, ma comunque c'è stato un attacco reale e una rivolta importante. E vabbè, poi dopo è chiaro che seguono gli arresti, quindi la spirale, diciamo, della repressione si mette in moto, però è vero che queste rivolte non avranno mai fine, non hanno fine, perché la forza delle persone recluse è innegabile, e nonostante la sedazione, nonostante gli abusi di tutti i tipi, le condizioni di vita veramente sul limite della sopravvivenza, appunto questa violenza farmacologica costituita da queste somministrazioni di psicofarmaci per tenere, diciamo, per controllare il comportamento dei reclusi, nonostante tutto ciò, la voglia di libertà e anche la necessità, direi, di ribellarsi alla prigionia sono più forti. Abbiamo scelto, diciamo, per questa puntata di Zardins di scrivere questo slogan: da Gradisca a Ponte Galeria, viva le rivolte nei CPR, per appunto mettere l'attenzione sul fatto delle rivolte più che sul fatto della drammaticità del suicidio di Ousmane, e anche poi arriviamo a parlare anche di Gradisca, del fatto che questo prigioniero che appunto è tentando la fuga è caduto e quindi si è fatto parecchio male, insomma, è ricoverato all'ospedale di Udine, sembra in terapia intensiva, quindi insomma la situazione non è leggera, però è importante anche questo, che anche in questo caso, che anche a Gradisca, e non è continuamente, insomma, ci sono delle rivolte, e anche in questo caso le persone non si rassegnano, e anche in questo caso appunto questa caduta è avvenuta nel corso di una rivolta in cui i detenuti si sono portati dalla zona verde alla zona rossa, sono riusciti a salire sul tetto e poi così. E allora, entrambi questo uomo che è caduto appunto a Gradisca e anche il ragazzo guineiano di Ponte Galeria erano stati trasferiti da Trapani Milo, qui anche questo, questo CPR che è stato praticamente distrutto da poco, insomma nelle scorse settimane, praticamente la struttura è stata resa inagibile al 90%, quindi sempre grazie a questa rivolta dei prigionieri. Allora, su questa faccenda qua dei CPR, di questi veri e propri lager nella democrazia, vi propongo alcune così degli stralci da un volantino del 2019, uno scritto del 2019 delle compagne della coordinamenta femminista e lesbica di Roma, perché questo volantino inquadra un po' la faccenda e parte dalla Turco Napolitano. In modo anche da questi microfoni magari lo diciamo sempre, ma c'è tutto un giro di sinistra ipocrita e tutta una serie di teste di cazzo, mi dispiace il francesismo ma devo dire così, mi viene da dire così, del PD, che adesso si scandalizza. Insomma, sembra che la faccenda dei CPR non li riguardi minimamente. Sembra che appunto sia la destra l'artefice di tutto ciò. E purtroppo questa tirittera va avanti per tanti aspetti, insomma, anche per le questioni legate al militarismo e alla militarizzazione della società, anche per quanto riguarda le questioni carcerarie. Cioè, è sempre colpa degli ultimi, diciamo, peggioratori o comunque della destra che fa chiaramente porta alle estreme conseguenze quello che però è già stato abbozzato in maniera criminale dai governi precedenti. Allora, questo contributo appunto titolava, era dell'11 luglio 2019, titolava: i CPR non sono un problema umanitario, sono una questione politica. E appunto il contributo inizia leggendo alcuni articoli della legge numero 40 del 98, la cosiddetta Turco Napolitano, che ha dato ha creato i CPT e la detenzione amministrativa. Dicono questi articolo 7: il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata. Articolo 8: ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono un'attività di assistenza per stranieri. Articolo 9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'Interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate col Ministro del Tesoro. Il Ministro dell'Interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri ministri. Ecco qua la legge Turco-Napolitano. E ci dicono le compagne in questo volantino: di CPR si muore, lo sappiamo ormai da tanti anni, di detenzione amministrativa si muore. Al di là delle prese di posizione partecipative e dei cori umanitari, ci sono due elementi di riflessione che dovrebbero essere fondanti nell'analisi. Da una parte la gente, ma anche gran parte della sinistra antagonista, sembra non rendersi conto che la detenzione amministrativa non è un problema di migranti, è un problema che riguarda tutti e tutte. Lo Stato si è arrogato il diritto di rinchiudere dentro dei campi di internamento delle soggettività che non sono gradite perché irregolari. Ma l'irregolarità può essere decretata per qualsiasi cosa. Chiunque potrà essere internato per una condizione e non per qualche cosa che ha commesso, non per un reato. Non sarà quindi giudicato da un tribunale, non potrà difendersi da un'accusa. La decisione è amministrativa e riguarda solo quello che sei in quel momento. È un principio che chiarisce e inquadra il rapporto tra potere e sudditi, che definisce la società neoliberista per quello che è nella sostanza, una società improntata su principi nazisti. Lo strappo rispetto al diritto borghese, così come noi lo conoscevamo, è stato attuato con la legge Turco-Napolitano del 98 e questo dovrebbe essere più che sufficiente per sotterrare sotto una valanga di risate le esternazioni che adesso va facendo la socialdemocrazia riformista. Sì, una valanga di risate, perché un abisso di indecenza non può ottenere altra risposta. Dall'altra parte c'è un coinvolgimento molto forte di molte strutture sociali e ambienti lavorativi, oltre alle varie polizie, nella gestione dei CPR e del corollario che prima e dopo li accompagna. C'è chi cura la parte documentaria amministrativa, chi rastrella, chi controlla, chi pulisce, chi fornisce, chi gestisce, chi supervisiona, chi stende statistiche e progetti, chi dovrebbe curare, chi dar da mangiare, chi cambiare le lenzuola. A questo punto vi voglio riproporre lo stralcio di uno scritto dell'ottobre 2010. Lettere di una femminista. C'è qualcuna che sostiene che i CPT, CIE, sono come i campi di internamento ed altre che trovano eccessivo ed improprio il paragone. I campi di internamento alla fine degli anni 30 furono introdotti in Italia non per persone che avevano commesso reati, ma per persone che avevano un determinato status. Infatti i primi ad esserci rinchiusi furono i nomadi italiani, allora Rom e Sinti. Stranieri non ce n'erano. Non a caso la regione con il maggior numero di campi di internamento e la prima dove furono istituiti fu l'Abruzzo, dove la comunità di nomadi italiani era più numerosa. A questi, nel corso degli anni, si aggiunsero tanti altri italiani, la cui unica colpa era quella di appartenere ad un'etnia. Fra questi occorre ricordare gli slavi che abitavano in Italia. L'Italia votava alla Società delle Nazioni, l'ONU di allora, tutte le mozioni a tutela delle minoranze e sottoscriveva tutti i più nobili protocolli a tutela delle stesse, salvo disattenderli sistematicamente. In questo notiamo che non c'è nessuna differenza fra ieri e oggi, però faceva un'eccezione per la minoranza di lingua tedesca, guarda caso, per via dell'alleanza con la Germania. Anche in questo caso non c'è nessuna differenza. I diritti umani, l'asilo politico, i protocolli internazionali sono subordinati ad alleanze ed interessi. Battezzati con i Rom, i campi di internamento cominciarono a proliferare in tutta Italia. Ce ne furono anche presso le donne, naturalmente, con direttrici donne. Allora emerge chiara una prima similitudine. L'internamento nei campi di ieri e nei CIE di oggi non è per reato, ma per condizione. Anche allora commissioni di vario tipo visitavano i campi, prime fra tutte quelle della Croce Rossa, che almeno allora si asteneva dal gestirli direttamente. Trovavano sempre tutto in ordine, non si scandalizzavano della loro esistenza, ma già non era il loro compito. Ma proprio perché va detto tutto, una volta in un campo consigliarono l'aumento della razione quotidiana di spaghetti e in un altro un cambio di lenzuola in più al mese. Tante persone lavoravano per e intorno ai campi, dalla polizia che andava a prendere a casa o per strada le persone da internare e svolgeva opera di controllo, al personale, spesso civile, dal direttore e direttrice a tutte le altre figure e altre ditte che fornivano il necessario per il funzionamento degli stessi. Anche qui non notiamo nessuna differenza e c'era la stampa che da una parte demonizzava le pericolose figure degli internati e dall'altra faceva finta di non sapere dell'esistenza dei campi, se non quando raccontava le lamentele e le paure dei cittadini che avevano la sventura, poverini, di viverci accanto, come la sindaca di Gradisca. Ma c'erano anche professori, accademici e persone che si rappresentavano come intellettuali e come tali venivano accreditati, che davano sulla validità dell'internamento motivazioni importanti. degne del loro ruolo, fino al delirio delle teorie sulla superiorità della razza. La stragrande maggioranza dei professori universitari e degli intellettuali di allora brillerà per il silenzio, però poi alcuni scriveranno dei dotti saggi sulle brutture dei campi di internamento, con relativi convegni e carriere, sempre nell'Italia repubblicana. E infine, tutti insieme, ognuno nel suo ambito, i poliziotti nel picchetto d'onore, i politici scoprendo le targhe, i professori con la lettera delle prolusioni, parteciperanno alle iniziative in ricordo. Chi ci sarà fra 30 anni vedrà questo anche per i CIE. Si parla di CIE perché appunto è uno scritto del 2010. Fino a qui è tutto uguale, però una differenza c'è. La storia non è ragioneria, ma qualche volta i conti bisogna farli. Nella nostra democratica repubblica, nei CIE c'è un numero considerevole di pestaggi all'ordine del giorno, numerosi casi di morte, sempre rubricata come naturale, di suicidi e di gesti dolorosi di autolesionismo. Chi si infligge orrende mutilazioni, come quella donna che si è cucita la bocca, siccome siamo tanto civili e progredite e progrediti, viene portato nel reparto di neurologia e psichiatria di un ospedale, perché qualche esperto o esperta ci deve mettere a posto con la coscienza e dirci che non è disperata, ma soltanto pazza. Dopo la guerra, gli operatori dei campi di internamento, chiamati a rispondere del loro lavoro, continuano a chiamarlo così, si sono prodigati a raccontare quanto erano buoni e quanto bene avevano fatto. Qui c'è una differenza: gli attuali operatori, già adesso, senza aspettare domani, ci raccontano quanto bene fanno e quanto sono buoni. Nessuna dica "non sapevo, non immaginavo, non credevo". Non ci sono zone neutre. O si è contro o si è complici. E dato che i pensieri si rincorrono e mi vengono in mente i presidi sotto i CPR di Ponte Galeria a Roma, dove ci si ritrova in poche, o quando si parla con le persone per la strada e si chiede "ma lei sa cos'è un CPR?" e la detenzione amministrativa, e ti guardano con occhio stralunato, e magari qualcuno molto raramente ti dice "ah sì, quei posti dei migranti", e non sai se gioca un ruolo maggiore l'ignoranza, l'indifferenza o la malafede. Vi aggiungo anche le righe che seguono, scritte nel maggio del 2013 e contenute in Femminismo Materialista, perché sono convinta della necessità di affrontare il problema dei CPR e delle problematiche relative all'immigrazione da un punto di vista assolutamente politico e non umanitario. Non siamo dame di San Vincenzo Rosse, il problema umanitario ce lo siamo già poste da tempo in memore, quando abbiamo deciso e scelto da che parte stare. E qui, vabbè, segue uno scritto un po' lungo che non sto a ripetervi, però sia a rileggervi, però è importante, se andate sul blog della Coordinamento Femminista e Lesbica, insomma, potete comunque leggerlo integralmente, è importante perché riprende, appunto, uno scritto del 2013, la vicenda di una vicenda avvenuta a Milano di un giovane ghanese che ha ucciso tre persone le prime incontrate per strada. E per questo uomo, che si chiama Kobobo, sì, si era parlato appunto di follia omicida e non di delle condizioni, insomma, delle condizioni nelle quali appunto viveva questa persona Sì, appunto, vi leggo solo questo: nessuno si è domandato il perché di due richieste d'asilo respinte, di due decreti di espulsione pendenti, o come e dove si trovasse da mangiare, o perché fosse qui in Italia. E appunto, e quindi si evidenzia questa cosa anche della disperazione, insomma, di come si può arrivare a un punto di rottura che porta anche a colpire del mucchio, diciamo, come è successo in questo caso. E nessuno che abbia avuto il coraggio di dire perché persone come Kobobo

Bene, teniamo in sottofondo questa band, loro sono i Good Riddance, dal loro album 1996, la data, scusate, il 95, la data d'uscita, e si chiama For God and Country. Come avevo detto prima, siamo ormai al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine. E in particolare oggi che siamo l'8 febbraio, quindi ricordo anche i nostri contatti per chi volesse scriverci, facendolo attraverso la posta elettronica, scrivendo a liberetutti@autistiche.org, oppure ad in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34 121. Ricordo che questo programma, vabbè, al di là che viene condotto dall'Assemblea Permanente e la contro il carcere e la repressione del Friuli e Trieste, potete riascoltare la puntata odierna ma anche tutte quelle delle volte scorse su zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Quindi ci salutiamo, e in particolare anche chi ci ascolterà domani in replica sulla web radio Radiazione dalle ore 17. Quindi l'appuntamento è per il prossimo giovedì, dopo questa band che è in sottofondo, i God Riddance, come ho detto, band californiana. Dal loro album uscito nel 1995 ci ascoltiamo un brano, forse due, vediamo come sono i tempi. Questa è una band macedone, quella che andiamo ora ad ascoltare. Loro si chiamano This Home Is Prepared ed è l'unica loro uscita musicale avvenuta nel 2006, che si chiama appunto come la band. Quindi direttamente dalla Macedonia ci ascoltiamo questi This Home Is Prepared. Bene, ciao a tutti e al prossimo giovedì. Make it nice. attacchi.